accenno sotto la tua stanza. Sembra un vecchio film anni 90, un videoclip di Taylor Swift. Ti copri ma vedo che ridi, penso a fare qualcosa, sì, ma adesso tremano le dita. Ti bacio ma non guardarmi, ho due biglietti in questi jeans. Stasera provo a non odiarmi, al cinema daranno Gatsby. Io e te staremo bene insieme, ci giurerei. Solo io e te, non vedi che tutto ci lega. Mi trovi in fila per la discoteca, che non è da me, ma è stasera. Perché io e te, sai che ci scommetterai. Sai che ci scommetterai. Se tu vedessi me come vedo io te. Te lo chiedo per l'ultima volta, vestita la sera, scegli questa notte poco sobria. Ho una vita già scritta, ti va di arrendersi sotto la pioggia, a spettinarci i capelli. Sembra letteratura americana, direi non so di che parli. Ho due biglietti in questi jeans, stasera provo a non odiarmi. Al cinema daranno Gatsby. Io e te staremo bene insieme, ci giurerei. Solo io e te, non vedi che tutto ci lega. Mi trovi in fila per la discoteca, che non è da me, ma è stasera. Perché io e te, sai che ci scommetterai. Sai che ci scommetterai. Se tu vedessi me come vedo io te. Da qui sembra Brooklyn, ci girerei. Sento qualcosa che non ho quasi mai. Perché io e te staremo bene insieme, ci girerei. Solo io e te non vedi che tutto ci lega. Mi trovi in fila per la discoteca, che non è da me, ma è stasera. Perché io e te, sai che ci scommetterai. Sai che ci scommetterai. Se tu vedessi me come vedo io te.